falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Il falco e il gabbiano diventa sempre più un programma democratico, gestito da un collettivo, e il collettivo è rappresentato proprio da voi che ci state ascoltando, che avete la bontà e l'arguzia di segnalarci storie molto belle. E infatti questa è una storia che ci ha suggerito uno di voi, Roberto di Albenga. Ciao Roberto. Buongiorno Enrico, molto lieto di conoscerti. Allora, ci dici cosa ti ha suggerito l'idea di scriverci per suggerire a noi Patrick de Gaillardon? Io ho visto in lui una persona molto, molto libera, proprio libera nell'anima, una persona rispettosa, umile, che vive in totale rispetto della natura. Perché lui ogni volta che tentava un esperimento entrava in punta di piedi. È vero, molto importante questo. Provava le sue evoluzioni e poi una volta finito riusciva ad uscire, diciamo, da questo teatro, da quell'elemento naturale, lasciando tutto incontaminato. E questa cosa a me ha sempre dato delle grossissime emozioni. Bene Roberto, io ti ringrazio e speriamo che il nostro racconto ti piaccia. Ma assolutamente, infatti io vi seguo regolarmente, ma io credevo che non lo facesse il mio, perché forse era troppo particolare, troppo... È proprio così. Perché era particolare che abbiamo deciso di farlo. Allora grande, grazie Enrico, ciao. È stato molto piacere, grazie, alla prossima. Grazie. Beh, sono sicuro che molti di voi, come Roberto, conoscono il mito greco di Icaro. Per scappare dal labirinto del Minotauro, suo padre Dedalo impasta penne di uccello con la cera, così i due riescono a volare via dall'isola di Creta. Icaro però, preso dall'ebbrezza del volo, si avvicina troppo al sole, la cera si scioglie e Icaro precipita in mare. In questo mito sta rinchiusa la voglia dell'uomo di volare, di sfidare la gravità, di essere libero come un falco o come un gabbiano. E così arriva questa idea di Roberto che ci spinge a raccontare la storia di un uomo che il sogno di Icaro l'ha inseguito sempre, facendolo diventare la sua ragione di vita e purtroppo anche la causa della sua morte. Oggi raccontiamo la storia dell'uomo che ha reinventato il paracadutismo moderno, Patrick de Gaillardon. Allora, l'hai mai fatto? No, non l'ho visto fare in televisione. È adrenalina pura al 100%. C'è gente che sniffa cocaina, ci sono altri che se la sparano in vena. A noi invece basta fare un salto. Allora che aspettiamo a saltare? Ah, così si parla. Sbrighiamoci. Ok, forza. Gianni, stai per saltare per la prima volta da un aereo. Che impressione ti fa? Ti si stringe il culo, vero? Questo era Point Break, un film su una banda di giovani surfisti che alternano l'attività sportiva con un'attività decisamente più sconsigliabile, quella di rapinatori di banche. Nella vita hanno uno scopo ben preciso, inseguire la loro passione, costi quel che costi, cercando ogni giorno dei limiti da superare, perché l'adrenalina arriva da lì. E tra questi limiti c'è anche quello di buttarsi da un aereo, provare a aprire il paracadute più tardi possibile. Il paracadutismo è uno sport molto pericoloso, proprio perché l'unica legge che sei costretto a osservare, tuo malgrado, è la legge di gravità e tutti i calcoli che ne derivano sull'apertura appunto del paracadute, cioè sul momento in cui frenare la caduta. Comunque si va in verticale verso il basso. Da questo ragionamento molto elementare parte l'idea di un giovane francese, Patrick de Gaillardon, che vuole modificare questa legge e cercare di rimanere in area il più possibile. Il mio approccio con il paracadutismo ha risentito moltissimo della preparazione militare. Quando effettui un lancio militare, lo strappo è immediato, appena fuori dall'aereo, e quindi si tratta solo di scendere con il paracadute aperto. Per questo, la preparazione del paracadute è la parte più importante, ma non c'è nessun divertimento. E certo, perché la parte bella, dicono quelli che si buttano, è proprio quella iniziale, quella in cui voli, avete presente tutti quei filmati in cui le persone sembrano ferme per aria, invece stanno precipitando prima di aprire il paracadute. Patrick, il paracadutismo ce l'ha nel DNA, sua madre fa parte della squadra nazionale di paracadutismo francese, effettua con successo centinaia di lanci fino a quando, per un banale incidente, lascia il piccolo solo a 12 anni. Pochi anni più tardi, dopo la morte di mia madre, anche mio padre se ne andò per un incidente d'auto e io rimasi solo. Fui allevato dai miei nonni e ricordo che la frase che mi ripetevano sempre era: guarda Patrick, guarda lassù il cielo. Quando ti senti solo è là che devi guardare, per vedere la mamma e il papà. E io li presi in parola. Patrick de Gaillardon sta iniziando una carriera da paracadutista sportivo che lo porta subito a entrare nella squadra nazionale francese. Anche durante il periodo di leva è stato un paracadutista, ma quando sei un militare devi sottostare alle regole e Patrick è uno spirito libero. Sembra nato per stare in aria, libero come un uccello, free as a bird, e così lancio dopo lancio comincia a perfezionare un nuovo modo di vivere questo sport, praticando la variante del freestyle. Con il freestyle sei libero di esprimere tutte le tue potenzialità. Passa molto tempo dal lancio fino all'apertura e puoi veramente dare sfogo a tutto il tuo desiderio di libertà. Sono momenti che vorresti non finissero mai. Il paracadutismo è solo uno dei tanti sport che Patrick pratica abitualmente. Si diverte con il base jumping, ovviamente, cioè si butta dai ponti della Francia legato ad una corda elastica. E siamo nell'84 quando questi sport, queste sfide cominciano a emergere. I materiali tra l'altro sono affidabili, ma fino a un certo punto bisogna essere dotati di una buona dose di incoscienza per fare quello che fa lui. Poi lui si diverte anche praticando lo sci, ovviamente non quello tradizionale magari a spazzaneve, no, lo sci estremo, fuori pista, quello più pericoloso. Lui è fatto così, la sua vita è una sfida continua alla ricerca di nuove sensazioni più forti possibile. Un giorno in Val d'Aosta con alcuni amici gli viene presentato un giovane sciatore italiano con la passione della fotografia. Io ho sempre praticato sci a un buon livello, ma sci fuori pista, sci sulle pietre, sempre fuori dagli schemi, via dalle piste, e sempre, ho sempre cercato la competizione con me stesso, non con gli altri, perché a me di vincere il primo o il secondo non mi interessa, a me basta essere, vincere con me stesso. Ho sempre cercato una vittoria con me stesso. Quest'uomo di cui avete appena ascoltato la voce si chiama Dario Ferro, è un importantissimo fotografo di sport estremi, probabilmente il più caro amico di Patrick de Gaillardon. È un uomo che lo ha conosciuto nel profondo, è stato con lui in tante sue imprese anche quando le cose si facevano molto complicate. Un uomo che ha contribuito a creare il mito de Gaillardon, coinvolgendolo in un progetto sportivo ma anche pubblicitario. Un'idea che oggi viene imitata da altri, ma loro sono stati i primi. Siamo a Aosta nella seconda metà degli anni Ottanta e stiamo raccontando Patrick de Gaillardon, e in questo momento stiamo parlando della sua amicizia con il fotografo Dario Ferro, che come lui ama gli sport estremi. Il modo per rivedere le cose che facevo era fotografarle. Quindi parallelamente alla mia attività di sportivo è incominciata l'attività di fotografo. E così potevo rivedere gli attimi per sempre.

Però un atleta comunque vive del suo sport, la tranquillità economica gli serve per concentrarsi meglio sulle sue imprese sportive e poter alzare non so, il livello di accessori all'avanguardia, insomma aumentare le proprie prestazioni e rendere più complesse le proprie sfide. Quindi l'incontro con l'agenzia ISM dà buoni frutti, perché l'azienda si chiama Sector e vuole lanciare una linea di orologi che si chiama No Limits. Patrick de Gaillardon, paracadutismo estremo, con lui c'è Sector. Nasce un team che comprende i migliori campioni di sport estremo del mondo: Manolo per il free climbing, Mike Horn con l'hydro speed, cioè quelli che si buttano dalle cascate in canoa, Giorgio Passino che scala le cascate di ghiaccio e tanti altri atleti, 22 campioni coordinati da Dario Ferro. Ma la punta di diamante è Patrick de Gaillardon. Stiamo raccontando, grazie a Roberto da Albenga e ad altri ascoltatori, la storia di colui che viene considerato un'icona nel mondo del paracadutismo, quello che ha sperimentato nuove tecniche di caduta, ha superato sfide impossibili e indirettamente la storia di chi lo ha raccontato. Il protagonista della nostra storia è Patrick de Gaillardon. Chi lo ha fotografato è soprattutto Dario Ferro, che è un fotografo di sport estremi che è stato appena ingaggiato dalla Sector per creare un gruppo di atleti particolari, il tutto per lanciare una linea di orologi, lo possiamo dire, i No Limits. Con la creazione di questo gruppo iniziano imprese sportive che costituiscono materiale per gli spot pubblicitari e quindi tutto questo gruppo di atleti estremi con a capo De Gaillardon viaggiano da un capo all'altro del mondo raggiungendo limiti che nessuno prima aveva mai tentato. Vedi quando la pubblicità in qualche modo riesce a fare grandi cose, a migliorare proprio uno stato di cose anche nello sport e soprattutto nelle grandi sfide. È lo stesso Patrick de Gaillardon ci racconta una delle sue prime imprese. Il salto Angel in Venezuela è la cascata più alta del mondo. Saltare nel vuoto per 900 metri e cadere assieme all'acqua a pochi metri dalla roccia e con i vortici creati dall'aria e dalla cascata stessa è un'emozione che ogni paracadutista vuole provare. Siamo nel 92 e il salto Angel è la prima delle imprese di Patrick de Gaillardon, che è un perfezionista. Ha molta attenzione nel preparare le sue imprese, la sua mentalità è frutto di un allenamento di tipo militare, è attento a ogni singolo particolare perché sa perfettamente che il minimo errore vuol dire la morte. Proprio per questo Patrick, quando deve preparare un salto, studia per mesi tutte le possibili variabili, il territorio, i venti, le condizioni climatiche, fisiche e naturalmente l'equipaggiamento adatto. Devo dire che gli anni passati sotto le armi hanno contribuito moltissimo a darmi un metodo nella preparazione di ogni salto. So benissimo di sfidare situazioni in cui basta il più piccolo errore per fallire e rischiare la vita. Ecco perché non trascuro nulla, nemmeno il più piccolo dettaglio. C'è un proverbio latino che è molto bello: audaces fortuna iuvat, la fortuna aiuta gli audaci. Poi in realtà il significato di audace va specificato, perché può assumere una connotazione negativa, perché può essere sinonimo di sfrontatezza e di incoscienza. Il proverbio è tra l'altro la citazione di un verso dell'Eneide che recita audentes fortuna iuvat, che ha un significato ben diverso: il destino aiuta chi osa. Questa frase si adatta perfettamente allo spirito con il quale De Gaillardon affronta ogni nuova prova, perché lui ha rispetto del destino e non lo sfida in modo avventato, insegue un risultato cercando di ridurre il rischio al minimo. For the all night inferno.

one unholy place. That is where I fell from grace. And they summoned me over to join in with them to the dance of the dead. Ho passato molto tempo a studiare l'aerodinamica. Ho fatto anche degli studi approfonditi sui petauri dello zucchero, i cosiddetti scoiattoli volanti, per rubare il loro modo di planare da un ramo all'altro. L'ossessione è sempre la stessa: allungare il più possibile il tempo di volo prima dell'apertura del paracadute. Patrick compie un'altra impresa incredibile. Durante un lancio riesce a rientrare nello stesso aereo da cui si è lanciato grazie all'ausilio della tuta alare. Dario Ferro ci ripete le parole che Patrick gli ha confidato prima del lancio. Sai perché ho inventato la tuta alare? Io ho inventato la tuta alare per restare più su che posso, perché io volevo stare nel cielo. Il sogno di Icaro era volare, stare più in aria che si poteva. Tutti pensavano che avessero inventato una tuta alare a livello sportivo, ma come abbiamo visto, lui ha fatto dei video, non ha mai fatto dei record. Lui ha sempre fatto delle cose per lui, ha sempre fatto delle cose per stupire se stesso, che poi piacessero anche agli altri. Patrick de Gaillardon non c'è più. Nel 1998, durante un salto di allenamento per provare alcune modifiche alla tuta alare alle Hawaii, un problema all'apertura del paracadute lo ha portato via. Per uno scherzo del destino, quel destino che De Gaillardon ha sempre affrontato con rispetto, calcolando ogni rischio affinché tutto andasse bene, quel giorno alle Hawaii accade un fatto inspiegabile. La cosa non è chiara, ma quel giorno Patrick non usa un paracadute controllato da lui personalmente. E così all'apertura i cavi si attorcigliano quando il francese apre il paracadute d'emergenza, è troppo tardi. E con lui se ne va il più grande paracadutista di tutti i tempi. E mi ha veramente pregato quel giorno di andare alle Hawaii con lui. Il biglietto era pagato e quindi mi fa: Dario, ti prego, vieni con me, no? Andiamo solo in vacanza 10 giorni e poi torniamo. Ho detto: Patrick, io ho un sacco di lavoro che devo consegnare. Faccio: Patrick, mi dispiace, questa volta non posso. E allora lui mi ha lasciato una borsa con tutto il suo materiale dentro. Fa: guarda, la prendo quando torno. E purtroppo quella borsa è ancora qui a casa mia. Io lo sto aspettando. Dario Ferro conserva la borsa del suo caro amico Patrick come una reliquia. Nella sua casa in Valle d'Aosta ha creato un piccolo museo dedicato a De Gaillardon, che considera un innovatore che nessuno è riuscito a superare. Sicuramente De Gaillardon è stato un inventore, un pioniere di una nuova disciplina del paracadutismo che è diventata uno sport a sé stante. Anche perché lui sperimentava. Quando tu sperimenti, sei in un campo dell'ignoto. Nessuno ha fatto qualcosa prima di te. Oggi è facile vedere delle tute alare larghe, lunghe, più. Quando uno ha inventato e tu devi semplicemente modificare, è molto semplice. Il problema è l'invenzione, il problema è l'idea. Poi tu puoi modificare a tuo piacimento, ma l'idea non è tua. Oggi è molto emozionante vedere le evoluzioni dei paracadutisti con le tute alari. Si affrontano sfide sempre più impegnative: sfiorare una montagna, infilarsi in un buco tra due rocce. Insomma, si cerca più il numero da circo, forse, piuttosto che l'impresa sportiva in sé, perché ormai la tuta inventata da Patrick de Gaillardon non è una novità, è una semplice attrezzatura da migliorare in modo scientifico, senza più usare il cuore. Tutti i base jumper adesso hanno tutte le tute alare, le vedi, i salti dalla Norvegia saltano a 1 metro dalla roccia e arrivano a 3 chilometri. Se guardi l'evoluzione che ha fatto, incredibile, perché prima il paracadutismo era verticale, era piombo e basta. Si può dire ha inventato uno sport, una specialità, tutto quello che vuoi. E infatti nel mondo del paracadutismo, dove come tutti i mondi ci sono invidie, Patrick è considerato un dio. Eh sì, un dio, un novello Icaro, ha sfidato le leggi della natura e è arrivato dove nessuno ha mai osato: combattere la forza di gravità per restare il più a lungo possibile nel luogo dove ci sono i ricordi, le sensazioni più forti, la pace interiore che ogni campione solitario cerca per contrastare la voglia continua di misurarsi e di superare ogni ostacolo e soprattutto di migliorarsi per dare un colpo d'ala alla vita. Ed è sintomatico il fatto che Patrick de Gaillardon, un uomo così meticoloso, muore l'unica volta che si fida di qualcun altro, l'unica volta che non controlla personalmente la sua attrezzatura. Sono storie di vite straordinarie quelle che abbiamo scelto di raccontarvi ogni giorno, e voi ci avete capito perché Roberto di Albenga ci ha segnalato una storia veramente interessante. Noi vi aspettiamo con altre storie, contattateci a elfalcoilgabbiano@radio24.it oppure alla nostra pagina Facebook, insomma venite a cercarci e se mi cercate mi trovate. Ciao, a domani. E il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.